21 del 14 luglio del 2021 inizia prove tecniche di trasmissione. Appuntamento consueto del mercoledì sera che andrà ad anticipare 25 o'clock, che inizierà invece alle 22.30 circa. www.ondarossa.info è il nostro riferimento web anche per ascoltarci via streaming. ondarossa@ondarossa.info è invece l'indirizzo di posta elettronica. 06 49 1750 è il contatto telefonico. Prova tecnica di trasmissione / disorder è un riferimento Facebook, dove domani, oltre che sul sito della radio, comparirà la registrazione con la playlist di questo odierno programma. Saluto Marco qui a Roma. Maia e Nicolocci della Sardegna, il medico della peste. Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Antichrist di omicidio, Marco Milanese di disordine, Cecilia Miradoli del progetto Pindar insieme a Max Terenzi, Dario Arrighi di progetto No Name, Nadir Persegona di Os, Tabo Arasa a Cortina d'Ampezzo. Lucia Cagliazza in arte Lupsi in quel di Udine. E venerdì prossimo, 16 luglio, quindi ci sarà una iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa. Si terrà al centro sociale Forte Prenestino a Centocelle e vedrà impegnati due progetti diversi tra di loro, ma che fanno anche della visuals e della comunicazione visiva una fonte molto importante. Sto parlando di Orlok 22, realtà parallela agli Art Decore, anche se come Orlok 22 si muove nell'ambito più o meno del Dark Ambient. H501L, meglio conosciuto anche come musica macchina, format radiofonico, invece è un progetto più affine all'elettronica, alla trance, all'elettronica anni 90, ai Kraftwerk, eccetera, eccetera. Quest'ultimo ce lo siamo ascoltati lunedì scorso, mentre questa sera ci andremo ad ascoltare quello che andremo anche a vedere venerdì prossimo, ossia la sonorizzazione di Begotten. Il film è molto particolare. E quindi noi ci andremo ad ascoltare adesso qualche minuto di questo commento sonoro al fine omonimo, che si può anche trovare su YouTube. Dunque, ecco qua, Orlok 22. dunque questo era Orlok 22, side project degli Hardcore, che sono qui di Roma. E diciamo sotto questo, diciamo, questo pseudonimo nasce soprattutto perché lo si va a legare all'esecuzione di colonne sonore di film muti. Il primo esperimento fu Nosferatu di Friedrich Wilhelm Murnau, mentre appunto questo nuovo lavoro di Orlok 22 si basa sul film Begotten di Elias Menrique, un film, se non sbaglio, del 91, non vorrei sbagliare. Storia particolare che vuole intendere una sorta di dio che si suicida per generare la vita, e come figura femminile che rappresenta la madre terra, da cui scaturirà poi, diciamo, il generato, sia Begotten. E entrambi avranno attraverseranno delle vicende nel corso del film. È un film fondamentalmente ambientalista, che va a sottolineare per l'appunto le offese del genere umano verso madre natura. Film magari complesso, un po' ermetico, ma che verrà sicuramente arricchito da questo commento sonoro. Dopo, come ho già detto, H501L con Live in Visuals, autore di diversi format radiofonici, appunto, come Musica Macchina, Danza della Mente, e anche militante dei Recycle insieme a Emilio Loizzo. Qualcuno si ricorderà Mamma Roma. Adesso mando proprio lo spottino specifico di questa iniziativa. La cospirazione della Rosa Nera. Radio Onda Rossa. Venerdì 16 luglio, live act al Forte Prenestino. Se ti senti con un piede nella fossa e forte di stomaco, allora questo è il film che fa per te. Ore 21:30, Orlok 22 celebra il suo nuovo lavoro, ovvero creazioni sonore ad accompagnare le immagini del film Begotten di Elias Merich. Un inquietante viaggio nel macabro, dove sul finale si intuisce la metafora della violenza dell'uomo sulla natura. Ore 23. Riemergiamo dalle macabre atmosfere con le sonorità tecnoidi Live and Visual di H501L. A seguire DJ Set Electro Industrial a cura di Inoctibus Panis e DJ Electrodo. Bene. Allora vi aspettiamo venerdì 16 luglio al Forte Prenestino in via del Pino a 100°. Il tuo. Questa è la serata dunque. Dopo i due live ci sarà anche una selezione del sottoscritto insieme ai Noctibus Panis, altro ottimo programma che si tiene ogni venerdì sera qui su Radio Onda Rossa a partire dalle ore 21. La serata invece di venerdì inizierà intorno alle 22. Saluto intanto Like Wake, progetto romano di Ambient, Enrico Ponzone di Sokan Shibutsu Project. Wunnos Aylin, Issa Itual, Paolo Contucci da Roma Est. E risaluto Nicola Locci. Un saluto anche a Sara Capo Fontana di Progetto No Name e Chiara Mascardi. Noi andiamo avanti, lasciamo dunque Orlok 22. Rimaniamo qui in città, lo facciamo con Amptech, altra entità storica dell'ambient, dell'IDM, di un certo tipo di elettronica, in attività dalla fine degli anni 90. L'esordio si chiamava Microcosmos, per l'Eclectic, etichetta dello stesso Amtec, e noi ci andiamo ad ascoltare Danno Irreversibile, da Maga e Analysis. punto di partenza è sicuramente questa lugubre ambient, arricchita però da rumorismo noise che di tanto in tanto va ad arricchire molte tracce di questo Microcosmos, album di esordio, ottimo peraltro, del 1998. Alex Marenga dietro le macchine. Intanto saluto Alberto Clipper di MDMA, Arianna e Flavio di Noise Cluster, Antonio Christ di Omicidio. Abbiamo iniziato questa prima mezz'oretta di prove tecniche di trasmissione con due progetti romani, Orlok 22 per l'appunto in concerto come sonorizzazione venerdì prossimo al Forte Prenestino e per l'appunto Amptech. E quindi facciamo un salto molto ampio, geograficamente parlando, e ce ne andiamo in Cina. I più preparati sanno che dunque ci apprestiamo a visitare questa Anthology of Experimental Music from China, ideata da Raffaele Pezzella, che è andato a scovare talenti provenienti da questa terra così lontana. Questa sera ci ascoltiamo Bain Shui con una traccia dal nome Stranded e poi Ruo Tan con una traccia invece chiamata Moon. Thank you. Questo tormentato segmento elettroacustico di Banshue si chiamava Stranded, che viene paragonato ai nostrani tomografia assiale computerizzata sempre dall'attento Antichrist di omicidio. Sullo sfondo però si può percepire un rimando a situazioni etniche proprio di laggiù. Saluto intanto Mariano in quel di Berlino. Il fascino arcano e ritualistico di questo Ruotan si chiama Moon, questa traccia estratta anche lei da Anthology of Experimental Music from China. Alti livelli che infatti anche a me hanno fatto ricordare Furpa, progetto russo. E quindi anche per questa sera due passaggi, una ottima compilation veramente di notevole livello che continueremo a scoprire anche il prossimo mercoledì. Torniamo indietro nel tempo di parecchio, a circa 30 anni fa, e torniamo in Italia. Anche questa sera ci ascolteremo un qualcosa estratto da Consumarsi con Grazia di Dei Far. Ricordo ancora una volta Final Alternative Relation con Germano Oliva, Grazia Stella, Yolanda Torello, Roberto Costantino e il buon Mauro Guazzotti. La vecchia scuola industriale italiana che fu di notevole livello, e anche i Far ne furono esponenti non indifferenti. Allora, questa sera Encomio di Cordeglia, Lucciole Preservate numero 4 e Piano Forte. dalle incredibili acrobazie sperimentale rumoristiche in certi tratti, in altri più introspettivi, riguardante FAR, Final Alternative Relation, da Genova. Questo era da consumarsi con grazia, uscito ormai nel lontano 1985. Peraltro in questo album c'era anche la partecipazione alle percussioni di Alessandro Toffani. E poi, per l'appunto, Mauro Guazzotti, voce, saxofono e sintetizzatori, al pari di Germano Oliva. Le tastiere anche di Roberto Costantino e anche il clarinetto, tastiere anche lui, sintetizzatore di Fabrizio Caligaris. Ulteriore testimonianza della storica validità della scena nostrana. Torniamo ai giorni nostri, questo è Interior Terror degli americani Hyde, più spostato verso l'elettronica. Elettronica industriale con riferimenti anche un po' al Rhythmic Noise, un po' agli Skinny Puppy, un po' anche alle avanguardie generali più europee, più che americane. Choose Your Weapon, Spit e Don't You Bow Down.